e infine a presiedere questa seduta veramente in tutta la sua maestosità. Ci sono tutti. C'è il grande capo, i due grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Matiopoli. Sì, i membri della commissione discutono qualche piccola divergenza, ma sono fondamentalmente d'accordo. Sì, si stanno mettendo d'accordo nell'approvare il progetto Z11. Ancora qualche minuto, è il momento culminante. Pochi minuti e verrà effettuato. Che cosa verrà effettuato? Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana ci è stata finalmente aggiudicata. Bene, entriamo subito in diretta con questa nuova puntata dell'Onda in Onda. Abbiamo voluto iniziare con un omaggio doveroso a Peppino Impastato, che conduceva in quei tempi l'Onda Pazza, quindi diciamo che c'è anche un'assonanza col nostro programma, seppur ci occupiamo noi di baccate, quello che faceva lui. Perché oggi appunto andiamo in onda proprio nella giornata dell'anniversario della morte di Peppino Impastato, che appunto è avvenuto il 9 maggio 1978, stessa data tra l'altro del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso ad opera delle Brigate Rosse, e insomma oggi appunto da quel momento è stata istituita quindi la giornata alla memoria delle vittime del terrorismo. Oggi Napolitano ha fatto il suo discorso e noi ci sembrava doveroso più che altro non fare una puntata dedicata, no, alla figura di Peppino. Ne abbiamo fatte molte negli anni passati, trasmettere la solita canzone, no, la solita i cento passi. Ci sembrava doveroso iniziare proprio con questa puntata, con questo omaggio Peppino, sentendo la sua vera voce, non quella di un attore, quindi con tutto il bene che vogliamo a Luigi Locascio, che ha interpretato benissimo la figura di Peppino, ma abbiamo voluto sentire proprio la sua vera voce alla radio, a iniziare proprio questa puntata così. Ma prima di iniziare, visto che appunto abbiamo detto che è la giornata delle vittime del terrorismo, io direi di ascoltare, prima di iniziare veramente a dare i contatti e tutto il resto, iniziare questa puntata con la telefonata ghiacciante delle Brigate Rosse, che chiamano appunto il professor Franco Tritto per annunciare la morte di Aldo Moro. Al telefono è Valerio Morucci, un brigatista, e noi lo facciamo ascoltare nuda e cruda così com'è. È il professor Franco Tritto? E chi parla? È il dottor Nicolai. Di Nicolai. È lei, professor Franco Tritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse. Stai bene? Ha capito? Sì. Attendiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Il suo sapore fuori? Mi sente? No, se può ripetere il cortesino. Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via? Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non può? Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il presidente. Parli con mio padre, la prego. We'll be right back. E bentornati a questa nuova puntata dell'Onda in Onda, della quarta stagione dell'Onda in Onda. Abbiamo voluto iniziare con questi omaggi a Peppino Impastato e ad Aldo Moro. Ci è sembrato corretto trasmettere proprio la telefonata nuda e cruda dei brigatisti al telefono del professore Tritto, che annunciava appunto la morte di Moro e la vera voce di Peppino Impastato poco prima alla radio. Allora, diamo noi questa puntata, come abbiamo detto, ci occupiamo di altro. Vogliamo guardare avanti, nonostante insomma i tempi bui delle Brigate Rosse, del terrorismo, sembrano passati, anche se l'attentato, il recente attentato alla gambizzazione all'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, non ci fa ben sperare, ma insomma sicuramente quei tempi sono ormai passati. E noi vogliamo guardare avanti, facciamo una puntata leggera dedicata completamente ad altro. Infatti oggi avremo con noi continuiamo la serie di interviste ai gruppi indie rock, e soprattutto ci fa piacere avere questo gruppo che proviene in gran parte dalla Sicilia, e avremo con noi appunto un'intervista ai Fräulein Alice. Spero di averli pronunciati bene, perché il nome è tedesco, è Fräulein Alice, ma ce lo dirà fra poco, insomma, più secondo tardi. Me sarà tutt'altro nome, sarà un'altra pronuncia completamente. Dovrebbe essere Fräulein Alice, anche se io pronuncio Fräulein come se fosse inglese, esatto, però anche è tedesco. Alice invece credo che sia proprio, perché Fräulein Alice non ha senso, cioè, quindi amici, se lo vuoi fare figo di Fräulein Alice, scommettiamo sulla sacenza del tedesco di Andrea Massaro. No, io non so niente di tedesco. Però prima di tutto diamo i contatti. Allora, potete trovarci all'indirizzo facebook.com, attenzione è cambiato, non è più /ondainonda ma è facebook.com/londainonda, tutto attaccato. Abbiamo trasformato il nostro vecchio proprio profilo Facebook, sì, in una pagina, ma se scrivi Onda in Onda non ti dà più nessuno, scrivi Londa in Onda, vai nella nostra pagina. Perché? Perché abbiamo messo in online il nuovo sito di radiocentrale.it, dove appunto potete ascoltarci e visitare la nostra pagina proprio dell'Onda in Onda sul nostro sito, che è radiocentrale.it/ondainonda. Questo invece Quindi confuso per la L, che sì, hai messo, no, perché, tuo piacere, spero di far ritornare la pagina a quella che era Onda in Onda, però vabbè, pertanto siamo così. Inoltre potete scriverci e raggiungerci telefonicamente al numero 339 86 239 55 339 86 239 55, oppure commentare la nostra puntata su Twitter all'indirizzo twitter.com/ondainonda. Vuoi ricapitolarli tutti, te li ricordi a memoria senza leggere, e boom? No, è impossibile. Tutti. Dai, allora Facebook. Allora come? Ragazzi, voi andate su internet, mettete su Google e mettete slash, mettete soltanto /ondainonda, vi escono tutte le cose dell'ondainonda. No, allora, facebook.com/ondainonda, twitter.com/ondainonda, radiocentrale.it/ondainonda, e ovviamente 97.5, ma se lo, cioè, in qualche modo ci state ascoltando, quindi lo sapete già. E poi il numero di telefono è 339 86 23 95. Voglio sentire squillare questo telefono più muto al mondo. No, non squilla, perché è silenzioso. Ma arrivano i messaggi, ogni tanto arrivano. Poi quando la gente capisce che il numero è... Ma ce lo mandate un messaggio, gratuito, per favore. Allora lo faranno. È wind il telefono. Sì, lo sappiamo. Va bene, dati i contatti, io direi di passare subito col primo pezzo, visto che già abbiamo iniziato abbastanza pesanti. Ci ascoltiamo qualcosa di leggero prima di sentire appunto il primo singolo dei Fräulein Alice, che abbiamo fra poco in diretta con noi. Ci ascoltiamo i Black Keys con Lonely Boy. Oh, Ritorniamo in diretta, Andrea Curcuraci del appunto dei Froline Alice, il chitarrista, scrive su Facebook: tra poco, se proprio non avete niente di meglio da fare, lo sentire, mi sentirete soprattutto mi sentirete sparare quattro cazzate con gli amici dell'Onda in Onda. Quindi ha già capito questo programma di cosa si occupa e si è messo sì. Il nostro tema gioco. Principale sono le sparare cazzate. Sì, però no, insomma ci stiamo occupando di questa rassegna dei gruppi indie rock. Ringraziamo la Lunatic che ci sta facendo vari contatti di questi gruppi sia emergenti che non. Ricordiamo che la prossima settimana avremo un'intervista esclusiva con il Teatro degli Orrori, quindi rimarrete con noi perché insomma abbiamo una bellissima programmazione di interviste e promozioni di gruppi indie rock, come abbiamo già sperimentato qualche settimana fa. Suonano al citofono, chi sarà Claudio, che viene a darci una mano per la telefonata, appunto perché fra pochissimo avremo al telefono Andrea Curcuraci dei Froline Alice. Io spero sempre di pronunciarlo bene. L'hai detto da tante di quelle volte. Tante di quelle volte che ormai, loro hanno cambiato il nome al gruppo. Esatto. Se chiamavano, vabbè, ok. Se si chiamavano diversamente, adesso hanno cambiato nome. Prima, ovviamente, di chiamarlo, noi vi facciamo ascoltare il loro singolo, che è appunto Videochrome Monochrome. E io ti pregherei di metterlo, Bumbo. Sì, lo so, non te l'ho messo in scaletta proprio benissimo. Quello, no. Sali su. Ah, eccolo, ho sbagliato eccolo, io. Eccolo. È colpa mia, hai ragione, scusa. Magari. sono i Fräulein Alice. Questi qui che state ascoltando, questa qui che state ascoltando, scusate, è Videochrome, Monochrome del loro nuovo album. E abbiamo qui con noi in diretta Andrea Curcuraci. Ciao Andrea. Ciao ragazzi. Ciao, come stai? Beh, io tutto a posto, voi? Noi benissimo. Ho sentito, ho visto che dal tuo status di Facebook hai già interpretato la filosofia del programma. Sì, perché così vedendo voi muovervi in studio, cioè in contrapposizione alla serietà del vostro inizio di trasmissione, ho capito che magari sarebbe stata una cosa più leggera. Sì, sì, e sì. Molto meno tecnica. Esatto, no, non vogliamo tediare la gente con troppi tecnicismi sull'indie rock e sull'album. Ma devo dire che questo album è veramente, veramente molto bello. È prodotto dalla Seahorse, un misto di rock psichedelico, elettronico e grunge. Il vostro album si intitola I Love Lucilia, giusto? Sì, sì, esatto. Mi dici se ho pronunciato bene il nome fino ad ora? È Fräulein Alice? Allora, no, cioè, ecco, nel senso perfetto. Che... nel senso che la pronuncia corretta in tedesco sarebbe Fräulein Alice, perché... Ah, Alice proprio Alice, è... allora aveva ragione il mio regista, perfetto. Sì, però ti devo dire che non è un problema la pronuncia, perché alla fine poi sai, l'importante è che si ricordi il nome, forse la difficoltà in questo senso aiuta. Certo, perché... prima o poi... lo memorizzi. Sì, per forza di dirlo, di non sai come pronunciarlo, poi te lo ricordi per forza di cose. Perfetto. Allora, ma chi sarebbe Lucilia? Allora, Lucilia è la mosca verde, quella con gli occhiali rossi, quella che spunta sui cadaveri. Non vedo molti cadaveri, però sì, ho presente. Vabbè, che sono le carcasse di animali, cioè un'immagine un poco cruda. Ora ti dico la verità, il motivo del perché abbiamo scelto questo nome non te lo dico, ma perché non so, un po' per riservo personale, però ci siamo ritrovati ad avere una tematica per quest'album che sarebbe la scontatissima contrapposizione tra amore e morte, perché appunto Lucilia è un po' la mosca della morte e potrebbe essere una qualunque donna, una qualunque persona che si ami. Però cioè, diciamo che il titolo l'abbiamo scelto per un altro motivo. Poi sono le porte di culo della vita, ecco. Esatto, quindi non ce lo vuoi dare in anteprima il motivo del perché No, ma perché è lunga, è farraginosa e quindi preferisco evitare, ecco. Però cioè, anche infatti con la Lucilia reale, ecco, questo ti posso dire solo questo. Va bene. Cioè, non abbiamo fatto un giro su Google cercando la Lucilia, ma diciamo che qualcuno di noi ha avuto modo di osservarla molto da vicino e quindi, ecco, ti ho detto troppo. Va bene, ok, lasciamo stare così. A proposito dell'accostamento amore e morte, ma qual è la canzone che più rappresenta nel vostro album questo accostamento? Se c'è, ovviamente. No, l'accostamento poi in realtà c'è un po' in tutti i brani. Sicuramente Videodrome Monochrome diciamo, parla di un amore che non c'è più, di un qualcosa che è finito da un tempo imprecisato. Il protagonista della canzone poi si ritrova solo in una casa che è assolutamente vuota e addirittura monocromatica, non esistono più i colori perché non c'è più questo amore che tanto lo aveva fatto soffrire. Diciamo che però questo amore sofferto aleggia sempre in tutto il disco, forse un po' di meno nel pezzo finale, ma sì, quello che dura 8 minuti. Sì, il tanto criticato pezzo, no, perché noi già ci eravamo sentiti, ti ho detto che appunto l'intervista è un po' più leggera. Prima di domandarti alcune cose, io vorrei buttarla lì, perché Marco Buccino di Rock Shock ha scritto, e io te lo cito, no, perché è bellissimo, che alcuni vostri pezzi sono... lui è un po' indeciso, devo dire la verità, perché ha scritto: alcuni pezzi sono noiosi, ma altri interessanti, altri ancora ben fatti. E continua: il binomio amore e morte è un topos che rischia di diventare una melenza retorica amorosa che, se spinta verso l'opposto non si sa bene di cosa, rischia di diventare una rabbia fine a se stessa. Infine conclude però dicendo che un disco così non farà molta strada, cioè vi ha demolito praticamente. Sì, diciamo che allora quello che un po' ci ha infastidito non è tanto la critica può essere positiva come può essere negativa, ovviamente, però questa recensione è stata sembrava più un'invettiva personale, come sì, se io poi... l'ho letta e francamente era proprio una bastonata, come a dire: ma che schifo, perché ho sprecato il mio tempo. Invece io devo dire che il vostro disco mi è piaciuto veramente tanto. Mi è sembrato quasi un concept, è vero? Cioè, o sbaglio? Sì, no, dico, poi il tema è è proprio quello, cioè questo amore sempre soltanto, cioè non c'è una storia d'amore che va realmente a buon fine, o perlomeno non senza sofferenze lunghe, rapporti tortuosi, quindi questo poi magari si può anche cogliere ascoltando alcuni pezzi. E quindi sì, diciamo che è venuto fuori un concept, però ti posso dire che non era la nostra intenzione, ecco. Ah, non volevate fare un concept? No, assolutamente, però questo, diciamo, sono un lato positivo dell'unire diverse influenze ed esperienze dei vari componenti, perché poi siamo comunque riusciti ad ottenere questo concept album, pur non volendolo, perché comunque una botta di culo, possiamo dire. Esattamente, è stata una botta di culo, infatti il titolo è azzeccato, però diciamo che non c'entra niente, ecco, anche questo. Ho capito. Ma poi sai, cioè, sono cose che si devono dire, perché del resto quando uno ascolta l'album ci vede quello che vuole, come tra le recensioni che ci hanno fatto, c'è gente che ha visto significati assurdi dietro le canzoni. Poi sai, a volte sembra anche brutto dire la realtà su un pezzo. Sì, no, capisco bene. Capisco benissimo. Scusami, voi siete tutti quanti di diciamo di origini siciliane, tranne una persona del vostro gruppo, che è di correggo, cioè in realtà siamo tutti siciliani, solo che uno vive fuori? Sì, esatto, vive nel Trevisano. Ho capito. Io in un'altra intervista vostra ho sentito, se non sbaglio, che voi non provate prima dei concerti. Come fate? Anche lì una botta di culo, dice andiamo al concerto, come va? No. Perché no, ho sentito anche due live, quindi mi sono piaciuti, posso dire che insomma andate anche bene, non provando. No, vabbè, quella era stata una battuta, il fatto di non proviamo con il ragazzo che sta a Treviso, cioè questa sì è una cosa infatti un po' complicata, anche perché sai, in questo progetto mettono la loro parte attiva a tutti i componenti, quindi se manca qualcuno un po' si sente. Quindi siamo di provare, proviamo gli altri quattro, a seconda delle possibilità, quando può scendere per un concerto scende, se riusciamo a fare una prova lo facciamo, altrimenti niente, o suoniamo in quattro, ecco, questo è il problema. Ho capito. Senti, ma una cosa, noi l'altro giorno abbiamo intervistato il Panel Diavolo, non so se li conosci, sì, anche loro di Palermo, voi di Catania. A me sembra che l'indie rock si stia diffondendo e stia avendo mettendo radici, sono rincoglionito, mettendo radici più al sud che al nord. Ma dico, è vero, perché questa cosa non credo di sostenerla soltanto io. Quello che ti posso dire, per quello che è la nostra esperienza, per quello che comunque si va anche ascoltando e leggendo, sì, c'è una grande fucina di rock indipendente in Sicilia. Non so però poi realmente chi riesca ad andare avanti, chi riesca a varcare questi confini ritmi della Sicilia, perché ci sono difficoltà soprattutto di tipo economico, per potersi spostare, per poter andare a fare dei tour fuori dalla Sicilia, soprattutto in questo periodo assolutamente difficilissimo. E poi dipende anche da cosa in ogni caso la radio ti fa ascoltare, da cosa le riviste ti fanno, diciamo, ti propinano, perché io sostengo che ci sia troppa attenzione verso il neocantautorato e poco verso il rock indipendente, perché diciamo che la cultura musicale italiana in questo momento, quando non ascolta Emma Marrone, va verso il cantautorato, che nulla di nuovo ha da aggiungere ai grandi del passato, ecco. Certo, dici, una volta che si diventa poi mainstream è facile essere sulla cresta dell'onda. Sì, però ecco, diciamo che noi la nostra esperienza è quella che molta gente dice: ah sì, però è un genere difficile da ascoltare. Io sinceramente tutta questa difficoltà non la vedo, cioè mi rendo conto richiederà sicuramente più tempo che ascoltare un'altra tipologia di musicisti, però abbiamo ricevuto critiche in questo senso un po' esagerate probabilmente, ma non dagli addetti lavori. Comunque io parlo sempre di, diciamo, del pubblico, dice sì, bellissimi suoni, però a volte magari sono io che non ne capisco, cioè mi è stato detto di tutto in questo senso, ecco. Beh, possiamo dirlo, dai, che palla ascoltare sempre Ligabue, no? Eh sì, per me non possiamo dire che è una cosa, io non una palla. È troppo diretto. Meglio così. Non ti è dispiaciuto abbia iniziato con i Black Keys, no? Questo è un po' paracula, però. No, non ho capito, scusa. Non ti è dispiaciuto che abbiamo iniziato con i Black Keys? Ma guarda, ti dirò, no, cioè, onestamente, non è il mio genere preferito, però riconosco che, sai, essere in due, tirare fuori quel suono, significherà sicuramente qualcosa. Poi nella fattispecie Black Keys sono apprezzati tutti i più grandi musicisti mondiali, tra cui Radiohead, quindi ci sarà un motivo, ecco. Ma senti, quindi mi confermi che la Sicilia ha contribuito, insomma, alla nascita di questa onda di rock indipendente? Sì, io ti posso dire che con la nostra etichetta, la Sea Horse, ci sono diversi gruppi siciliani Tranquillo che andiamo a beccare tutti, perché a noi interessa di beccare tutti. Io i nomi non li faccio per non scontentare nessuno, perché se poi me ne scordo qualcuno sembra male. No, infatti, non li dirò. Li andiamo a beccare tutti. Effettivamente ci sono tanti artisti validissimi con la Sea Horse. Saranno anche tanti altri senza etichetta, c'è chi si sbatte per ottenere, non dico un contratto, perché è una terminologia che dagli anni 70 non si utilizza più, però per avere la possibilità di registrare perlomeno un EP e di poterlo distribuire in qualche modo, non è sicuramente facile. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di trovare la Sea Horse Recording di Paolo Messere, perché comunque nell'indipendenza è un'etichetta che si è ritagliata il suo spazio dignitosissimo e che comunque fa andare avanti tantissimi gruppi, soprattutto tantissimi gruppi siciliani. Sì, sì, ho visto. E per come è Paolo Messere, perché ti posso dire che se non vali qualcosa, un minimo sindacale perlomeno, non ti prendere sotto la sua ala, diciamo. Senti, ma tu parlavi prima delle difficoltà di fare anche di gestire un tour, ma voi siete in tour al momento? Allora, noi siamo in tour interrotto, diciamo, se posso dare questo termine. Perché tour interruptibus, sì. Esatto, tour interruptibus. Abbiamo avuto dei problemi extramusicali, cioè qualcuno di noi ha avuto dei problemi di salute, quindi ci siamo un attimo fermati, però dovremmo essere il 17, mi pare, dovremmo fare un'apparizione brevissima al Micalza di Palermo, dove siamo già stati peraltro qualche mese fa, e poi il giorno 2 giugno suoneremo insieme a Iota Tola all'Offline Rock Fest. Scusami, non ho sentito. Dove che suonerete? Il 2 giugno, dico, dovremmo suonare con suoneremo con i Wendt, le Iota Tola all'Offline Rock. Ah, Fest, i Wendt, sì, sì, sì. Ad Agnone Bagni. Ma io ti vorrei fare una domanda, però credo che sia una vaccata. Le influenze musicali dalle quali voi prendete spunto, quali sono? Perché a me ricorda un po' Disney. Chiaramente Disney, i giganti, i camaleonti, i Dick, i New Trolls. New Trolls, grandissimo. No, sto scherzando comunque. Però i New Trolls, guarda, io già ti avevo apprezzato. Beh sì, i New Trolls sicuramente valgono proprio, ma anche i giganti, voglio dire, qualcuno di serio lo citava. Se mi dicevi anche l'equipe 74 eravamo perfetti. L'equipe 84, vabbè, va. Demetrio Stratos sarebbe stata anche una gran bella citazione. Comunque, a parte gli scherzi, sono influenze molto differenti, perché c'è chi viene dall'elettronica, chi da un rock un po' più classico, chi dalla new wave, chi dal rock italiano e chi come me ascolta di tutto e si è interessato un po' a tutto. Se ti posso citare dei nomi così un po' meno conosciuti, tra l'altro i Black Heart Protection, sicuramente gli Animal Collective, St. Vincent, Fatboy Slim. L'elettronica, chiaramente. Come? Fatboy Slim. Fatboy Slim non tanto, come elettronica più Chemical Brothers, in generale l'elettronica francese, le Rhythm Digital, gli Air, Daft Punk, compagnia bella. Io devo farti i complimenti, devo farvi i complimenti più che altro per la copertina, mi è piaciuta molto, ma di chi è il disegno? Ecco, questa è una cosa a cui teniamo tantissimo e ti ringrazio per essertene accorta, per aver speso una parola in questo senso. L'ha fatto un nostro amico che si chiama Giuseppe Dalia, ha realizzato questo lavoro, tra l'altro è la sua interpretazione dell'album, e questa è la cosa veramente bella. perché infatti si è preso, ha contattato una sua amica, che è quella che figura in copertina, ci sono quei credits all'interno del booklet, e puoi vedere, chiaramente se avrei visto più che altro nel booklet c'è questo tutto il percorso seguito dalla mosca Lucilia, fino ad arrivare poi al retro dove ci sono i titoli scritti in maniera così un po' bizzarra, ecco. Alla cazzo. Esatto. Io non so cosa si può dire nella vostra radio. Puoi dire quello che ti pare nella vostra radio. Ormai abbiamo superato la fascia protetta. Va bene, senti, io ti faccio la domanda più paracula di tutte. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, una famiglia, dei bambini. Sì, vabbè, una bella casa, una vita tranquilla e il televisore del cazzo, ecco, se si riconosce. E il jukebox sempre con l'Equipe 84, no? Esatto, no, progetti per il futuro, chiaramente riuscire a superare problematiche che ci hanno bloccato, suonare un po' in giro per l'Italia, farci conoscere, diciamo, non dico al grande pubblico, ma al piccolo grande pubblico della musica indipendente. E poi chiaramente più in là, se le cose andranno bene, fare altri dischi, perché comunque la voglia di scrivere nuovi pezzi non ci manca mai. Ho capito, senti, ma l'ultima cosa, come va al momento l'album, cioè sia in Italia che all'estero, so che vi hanno recensito pure. Sì, l'album dal punto di vista della critica va benissimo, perché il sito in tutti i dati, come dicevi, siamo stati inseriti tra i 10 piccoli italiani consigliati di On The Rock, che diciamo, è una cosa che si commenta da sola, e poi tantissime recensioni positive, a parte quella citata da te all'inizio dell'intervista, in tutta Italia, in riviste è la cosa che ci ha fatto maggiormente piacere, però non c'è gli altri, sono state le recensioni rispettivamente a Londra per il musicnews.com e quella più, diciamo, fresca spagnola per la rivista anche cartacea Mondo Sonoro. Sono state tra l'altro due recensioni, cioè non è solo il fatto di avere una recensione all'estero, che comunque è una cosa non indifferente, soprattutto quella inglese, perché cantando in inglese non essere distrutti dagli inglesi ce ne vuole, ma è la cosa che proprio ti ha riempito il cuore di gioia, il fatto che siano entrambe molto positive, e quindi questo si lascia ben sperare appunto per il futuro e per gli eventuali progetti futuri. Senti, ma la vuoi salutare in conclusione Buccino, che vi ha distrutto? Lo vuoi dire? Che glielo spieghiamo noi come interpretare l'album, visto che lui non l'ha capito. No, guarda, assolutamente non me ne frega niente, cioè, perché mi auguro anzi che la sua conclusione, cioè che noi non faremo strada, sia come la storia della musica insegna, più che altro, diciamo, che ci porti fortuna. Sì, non dico che diventeremo famosissimi, non ti interessa neanche, però come ti dicevo prima, poterci tagliare il nostro spazio tra gli artisti italiani che la musica la fanno ancora sul serio, ecco. Va bene, noi ti facciamo tantissimi auguri per l'album, sì. Anche per il prossimo. Ce n'è un prossimo in arrivo magari? O in studio? In arrivo è presto, dai. No, in arrivo dalla mente alla chitarra. No, sì, già sì, perché comunque, cioè, noi lo vorremmo fare più in là, chiaramente, perché dobbiamo anche capire che direzione prendere, perché avrete notato che comunque, a parte il concept dell'amore e della morte, i pezzi sono anche un po' differenti tra di loro, ecco, cioè, proprio si sentono queste influenze diverse nei vari pezzi. Sì, sì. Magari sceglieremo per un secondo album di intraprendere una via magari un po' più delineata, ecco. Va bene, allora noi ripetiamo, ti facciamo tanti auguri, in bocca al lupo, e stendi ovviamente gli auguri anche agli altri componenti della band. Ci ascoltiamo la tua prossima canzone, che è Easy Go Up, ma rimani con noi per venire anche i tuoi fan con noi, perché l'onda in onda continua. Noi ti ringraziamo, Andrea, ciao. Grazie a voi, ciao. I'm sorry. E questi appunto erano i Fräulein Alice, Alice, Alice, Alice. Io non ce la farò mai a imparare. Ti sei fatto pure cazziare dal chitarrista. E vabbè, dai, ognuno c'ha i suoi limiti. Senti, a proposito di limiti, noi conosciamo qualcuno che ha dei limiti. No, non è sì, quell'articolo, non è quell'articolo che stai per far vedere. Diciamo a livello nazionale, proprio limiti mentali, il no? Trota. Ad essere esatto, come fa? Si parlava proprio del Trota, della Lega. Io allora non era. Lui non conosce la scaletta che stavo per presentare, ma l'ha detto, perché è chiaro che lui è il Trota. Risposta semplice. Sì, infatti. Perché io ti parlo di questo? Perché c'è stato un gruppo che è tornato dopo un po' nella scena musicale italiana, che sono i Pancreas. Trotas. No, no, i Totem, i Trotas, ma i Pancreas. Con lo Zulu dei 99 Posse. Che tu conoscerai molto bene. Yeah. Yeah. Lo Zulu dei 99 Posse hanno fatto questa canzone che si chiama Polente Kebab. Che tra l'altro è stata censurata. Poi non ho seguito più bene la vicenda. Non so se era un problema di video, non so di che cosa, di politica interna alla perché la polenta radio, col kebab fa facilità. È stata censurata da Radio DJ o da Radio DJ TV, insomma, una cosa che sta qua. Insomma, ha fatto scatenato un grande polverone. Presentata tra l'altro in anteprima dalla Repubblica.it. La canzone è molto forte sulla Lega. Parla della Lega e dei padani, no, fanatici, e si conclude proprio facendo un accenno all'andrangheta che è finita appunto a Milano. E tutto questo prima che scoppiasse lo scandalo di Belsito, che appunto aveva rapporti con gli andranghetisti, e si scoprisse, no, tutto il giro poi il giro di mazzette, insomma, tutto il giro, ristrutturazioni di case, diplomi del Trota. Tu non te lo sei comprato un diploma diploma leghista. No, ma tra l'altro poco fa leggevo qua, la laurea del Trota comprata in Albania. Sì, in Albania, albanesi. Poi si compravano, i diplomi. E noi, insomma, vogliamo farvi ascoltare questo pezzo che ancora non è stato trasmesso da questa radio, che è Polenta e Kebab. Verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi, non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi, ma odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, inventano qualche balla, attirano la folla, col rito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, erano contro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri bastardi, il tricolore Garibaldi. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che fa parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore, ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera, tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani c'è, ne sono tantissimi per bene anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore, ha un posto fisso in villa, si sente lusingato, ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato, lui crede di far parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Da Milano bellissima, Pancreas con Zulu, spacca tantissimo, no, bella, bella vero. Non la conoscevo, ma... è uscita proprio da pochissimo e, insomma, era doveroso anche farvi sentire questa. Va bene, allora, ricordiamo che il palinsesto di Radio Centrale continua questa sera, subito dopo di noi ci sarà appunto Positive Vibration. Claudio, chi avrete questa sera come buonasera, ospite? Buonasera, io intanto vi voglio fare complimenti perché sto vedendo che l'onda in onda da cazzo totale comincia a diventare un po' più positive vibration. L'onda in onda è sempre stata cazzo totale in un altro senso. Cioè, è proprio sostanza. Sì, sostanza... Cioè. E pane e sostanza, ho diciamo. Capito. Vabbè, comunque, insomma, non è merito del Massaro. No. Quello che vedi non è merito del Massaro. E di chi è il merito? Chi dobbiamo ringraziare? Ringrazia me che. Boom, così. Grazie, boom. Allora. Ma Panzica? Panzica tornerà la prossima settimana. Finalmente negli studi dell'Onda in Onda. Quindi torneranno personaggi. Ma non smetteremo con le interviste ai gruppi indie rock. Io voglio ricordarti che Andrea non ti ha salutato nemmeno oggi. Antonio, vabbè, infatti saluti Avro, però l'ho introdotto nella sigla, cioè nell'anteprima, l'ho salutato, però insomma tornerà la prossima settimana e avremo come gruppo il Teatro degli Orrori in anteprima qui su Radio Centrale. Non concedevano interviste fino a dicembre, però ci siamo riusciti a strappare un'intervista al Teatro degli Orrori, quindi la prossima settimana al completo faremo questa. Quanto hai pagato, dai? Un po'. Ma siamo troppo forti. È presente il cazzo totale? ora è di mezza. Fantastico. No, perciò su Positive Vibration tra pochissimo avremo in anteprima nazionale la la presentazione nazionale del nuovo EP di Lion D, punta di diamante assieme a Rust e Weld della Bizzarri Records di Modena. Quindi insomma, roba interessantissima, devo dire. Roba che scotta stasera. Sì, ho visto sul sito. Ti piace il sito nuovo? Bello, bello. Continuo. Bello, no, ha appena scritto Antonio, ha detto saluta tutti a nome mio. Quindi no, ci sta ascoltando e è qui con noi con le orecchie. Sempre la sua presenza legge. Ma dov'è? Sì, è qui con noi in giro. Lui è come se fosse un'entità soprannaturale. Non si vede, ma c'è. Senti, allora Antonio Ubiquo. Quando abbiamo dato la scorsa settimana la notizia, no, della ninfomane seriale, cioè era abbastanza suffragata da articoli suffragata. di giornali. Era abbastanza suffragata. Dai, si può dire suffragata? No, si può dire suffragata. Sì. Serena annuisce dietro gli schermi. Soprattutto. Lascia stare. Allora. No, ma c'entra anche lì. È abbastanza super califragile. Da fonti. Una ninfomane suffragata. Cos'è? Da fonti giornalistiche. È un bel titolo per un romanzo. Però la ninfomane suffragata. Sì, ma se mi fate andare avanti, io lo spiego. Perché ho detto, vabbè, magari sarà una bufala. Invece no, perché lei è tornata a colpire e la notizia è diventata così importante che la riporta anche il Corriere della Sera. Non contenta del... Come a dire che quello che scrive il Corriere della Sera è importante e tutto il resto sono cazzate. È difficile che il Corriere ti pubblichi una bufala così grossa, quindi visto che era supportata... Non è che perché ci scrive tuo fratello, dai, diciamola no, tutta. No, mio fratello scriverà il Corriere sul Corriere, però non scrive della puttana, no, della ninfomane suffragata. Non è una puttana, no? È un ninfomane. No, scusate, è una ninfomane. Cioè, guardi, sono problemi, dico, è curato dal Servizio Sanitario Nazionale. È una malattia. Un problema serio, Andrea. Non se ne fossero questi problemi. È anche un problema per le vittime. Sì, cioè, è un problema perché, serio. Cosa era successo? Lei aveva preso un DJ e l'aveva fatto un calviaro africano. Per 36 ore, ma ha colpito di nuovo perché ha colpito di nuovo, ma no, io non ce l'ho qua, la devi leggere tu la notizia. Ma perché parte a leggere la notizia? Perché non la trovo, ho perso il filo qui nel mio PC, quindi visto che c'è l'altro intanto vedi, sì. Tu fai confusione, confondi. Perché era già successo prima. Perché la denuncia, quella che abbiamo letto noi la settimana scorsa, risaleva già a 2 settimane prima. Ah, ok, perfetto. Quindi adesso la riporta del Corriere. Aveva sequestrato. Risaleva, boom. Risaleva. Cioè, risaleva. Scusa. Risaliva, scusate, non me ne sono nemmeno accorto. Vabbè, scusa, Andrea si può mangiare mezza frase, io non posso dire risaleva. Ma tu devi mantenere alto il contegno di questo programma. Cioè, sta a te. No? Per par condicio posso anche fare io il completatore. Mi serve anche a me un completatore di frasi. Positive Vibration solo io quello che dice queste cose. Però. Mi rubo un po' il posto ogni tanto. Praticamente questa signora, la 47enne, cioè, c'è ricascata, perché quello che avevamo detto noi era la notizia, quando aveva sequestrato questo per 5 ore dell'africano. Ok. Poi successivamente la signora, non contenta, quindi ancora non si era tolta tutto il prurito. Tutto lo sfizio, si dice. Tutto il prurito non si era tolto. Ha ingaggiato questo nuovo, in senso, va, un nuovo presta... Non è un prestanome, ma... Come si può definire, diciamo. un presta qualcosa, insomma. E l'ha rinchiuso per le 36 ore, perché giustamente la signora dice 5 ore sono poche, non ce la minimo faccio. Adesso ne facciamo 36, facciamo una maratona. Ma non so se è stata arrestata è stata arrestata nuovamente. Io ce l'ho qua, l'altra notizia, appunto, l'ho presa, è stata nuovamente arrestata, ma tenetela in carcere. Ma dice che però della 47enne non ci sono foto. Il giornale di Monaco spiega che però che si tratta di un attraente e sinuosa sirena. Almeno è attraente, cioè. Lo dice il giornale di Monaco, non lo so, questa qui è proprio scritta sul Corriere, quindi Claudio, non lo so. Senti, un attimo, ha scritto Antonio, notizia importante, partita IVA, ci mancherà. Io sono veramente dispiaciuto di non avere l'altro computer con i suoni. Cioè, perché veramente queste freddure di Antonio Panzica sono da Oscar proprio. Infatti qua guarda, risate generali, sì, non si possono tenere. Sta morendo. L'acquario è proprio in delirio. L'acquario, cioè, come acquario è muto, ovviamente. Ovviamente non possono parlare, a meno che non gli aprivi i microfoni e quindi, cioè, i tre pesciolini all'altra parte. Va bene, no, gli rispondo che purtroppo ho detto questa vaccata che mi ha suggerito lui, ma io direi di ascoltarci subito il prossimo pezzo, che vedo Claudio che sta che cosa. Aspetta, stai armeggiando? Claudio sta smanettando. Io stavo lanciando il prossimo pezzo, ma tu Panzica, ricordati che devi morire. Vabbè, lui sta cercando di fare il deficiente con non ce ne sa che piangere. Va bene, dai, ci ascoltiamo. Ma lo mando io il pezzo. Lo mandi tu? Sì, lo mando vuoi io. Annunciare? Ma è quello che è quello tuo o quello mio? No, è quello mio. Scusa, abbiamo mandato 8 pezzi. Ah, no, va bene, ok, allora vai, lo dedico a Claudio a questo punto, questo pezzo, perché giustamente è un pezzo che non si vede tanto spesso qui all'Onda in Onda. Non si sente qui tanto spesso all'Onda in Onda. Perché? Ma guarda, io ne vedo un altro che se me lo vuoi dedicare lo preferisco. Ma preferisci l'altro, questo? Sì, sì, sì, benissimo. Allora ci ascoltiamo Luciano con Give Praise to Rastafari. Sometimes may do me wrong, but by my faith I keep holding on. So I give praise to Rastafari, and all praises unto God. Give praise to Rastafari. They don't know what to do. They pass and fight for what they think is right. Life for them seems so hard. They don't know where to turn with lessons that they need to learn. Give praise to Rastafari. Give praise to Rastafari. rientriamo in studio, anzi rientriamo, abbiamo mandato via Andrea. Rientriamo senza Andrea, sì, perché insomma lui è andato molto diplomaticamente a orinare e noi gli fottiamo il posto. Allora, oh, una presenza. Che cosa stai facendo? No, perché ti alzi dal mio posto e te ne vai nel tuo acquario orrendo. E tu, Andrea, sei qui fra poco. È tardi, via. Vattene via. Non è tardi, non è tardi. Vai via. Che ma ti sei lavato le mani, Andrea? Sì, me le sono lavate le mani. Ora, grazie per essere tornati in diretta. Ecco, la sedia che sbatte. Grande professionalità, veramente, ragazzi. I pochi fan che ci sono rimasti dall'intervista di prima torneranno. Cosa è successo? No, niente, tu stai tranquillo. Ok, va bene. Ci abbiamo una dedica. A proposito, ricordiamo i contatti. Quindi, se volete dediche, però magari non chiedeteci canzoni assurde, perché abbiamo la nostra scaletta. Qualcuna se volete possiamo... dediche, ci sono, vero? Sì, ci sono. Sì, ci è mai. www.radiocentrale.it/positive vibration. Perché quest'uomo si fa le marchette? Ma io gli chiudo il microfono e basta. Sì, allora, sì, i nostri contatti sono: se volete mandarci messaggi, 339-8623-955, oppure seguirci nella nostra pagina facebook.com/londainonda. Oppure attaccato. Mandate una lettera via posta il lunedì. Il mercoledì arriverà qua, noi la leggeremo. La vostra richiesta del mercoledì. Qualsiasi cosa, va bene, va bene. Allora, boom. Cosa vuole Claudio dietro il vetro? Dico una precisazione: per le lettere è possibile, però mandatele il lunedì prima rispetto alla settimana in cui vorrete che arrivi, perché insomma, certo, le poste italiane sono un pochettino sono due giorni, tu chiedi assai, caro Bummo. Vabbè, se la mandi da termine a termine, forse. No, ma che sei peggio, La porti tutti che la mandano prima a Milano e poi ritorna indietro, cioè, classico. Ti fanno poi il lungo giro. Assolutamente. Ma Andrea, io avevo letto una notizia. Sì, io scusa, prima di una notizia vorrei vorrei fare un appello. Vorrei chiedere, me la metti una musica un po' più, qualcosa di Melenzo, no? Qualcosa di Melenzo, sì, quella di prima, ma perché quella... parli così oggi? Quella là che mi hai messo prima. Di no? Melenzo, sì, un attimo che te la prendo. No, perché ormai è maggio, no? C'è un po' di caldo fuori. Dentro questi studi radiofonici, diciamo che ci sono un bel po' di computer. I computer accesi producono calore. Le persone dentro producono calore. Il calore che c'è fuori produce calore che poi entra dentro. Quindi diciamo che qui dentro si squaglia letteralmente. Io vorrei fare un appello accorato al nostro direttore, ma vorrei che Bummo, che tu lo chiamassi e tu parlassi con lui. Proprio ho trovato la canzone. Intanto. Sì, infatti, mettila e parli. Io guarda, canzone, vado a chiamarlo. Vedi se tu puoi fargli questo appello. Questa ti va bene. Quindi, allora, proviamo a chiamare il presidente. Vediamo. Direttore, vediamo se c'è. Io per me è presidente. Dovrebbe essere qui fuori. Dovrebbe essere qui fuori. Quindi lo chiamiamo. No, vado a chiamarlo. Cioè, vai tu. Sì, manco sì, per vado. Gridare, vado. Tipo, non è giusto. Nel frattempo, noi ci ascoltiamo questa. Che poi, tra l'altro, è l'aria sulla quarta corda. Direttore, buongiorno, buonasera. Senti, allora devi pulire la scrivania. No, direttore, noi qui abbiamo problemi seri. No, allora, ragazzi, io dico una cosa. Dovete mandare la pubblicità, prima di tutto. Poi io mangio la pubblicità. Cioè io mangio proprio gli spot. Io mangi? La mattina prendo, cioè, latte e spot. Sono dei dischi e dischi di spot. Spot in zucchero. Però la prego, non si concentri troppo. No, non vorrei che io, allora microfono. Il commutatore telefonico. Sì. Soldi, capito? No, troppi soldi. E tu che vuoi? Vuoi io, no, l'aria condizionata? Ma anche un ventilatore. L'aria condizionata. Ma tu lo sai, chiama che qualcuno. Faccio io mangio. Spot. Io mangio spot. vorrei dirvi una cosa, ragazzi, allora le chiavi le dovete posare. Sempre. Sono posate sul tavolo. No, io direttore. Le ho viste, camminavano al chiosco. Chi è che c'è? Lo faremo presente. Chi lo fa questo? No, ma è Andrea. Deve parlare con Andrea. Andrea. Ma, una cosa, ma che vuoi? L'hai intenzionato voi? Un ventilatore. O comunque chiami qualcuno per soffiarci. Un ventilatore, perché no? Se colleghiamo la. Io lo sai che faccio? Prendo una ventola del computer e la collego alla spina e gira. Così risparmiamo, che dici? Se ne prende 6-7. No, no, una. Tu non ce l'hai nella casa, la porti da casa e facciamo il ventilatore. No, mi dispiace. Vabbè, io torno, vado a mangiare, che mi sono avanzati due spot, li metto nel latte. Quindi li mette subito nel latte? Sì, sì, no, me li metto nel latte così li mangio, troppa fame di spot. Vabbè, quindi noi aspettiamo l'aria condizionata, insomma. Sì, un... sì, poi glielo dico, poi voi ragazzi, voi continuate la puntata e poi... Ok, abbiamo capito tutto, direttore. Quando esce mi può chiamare Andrea? Ma che sta facendo? Mugugna. Picciotti, cos'è che è successo? Che, niente, il direttore ha detto che c'è sì, qualche no, problema. No, lo so, ho sentito. Ma c'è qualche problema con l'aria condizionata? Chiaro. Perché vuole fare un'invenzione. No, guarda, io ti ho parlato prima di farla entrare. Ti ho detto c'è caldo. Lui è, però non ne sente, lui è ignifugo. No, lui non, non solo è ignifugo, ma mantiene la temperatura corporea. Il termometro rotto. Quindi non mi sa che non ce la farà questa. Questa telefonata. C'hai una chiamata in arrivo invece tu, ma credo che risponderai dopo, perché prima dobbiamo lanciare il prossimo pezzo, che invece lo lancio io, e sono i Foo Fighters. Foo Fighters. Foo Fighters. Me lo dici? Fighters. No, sono Fighters. Fighters. Ma Fighters. Ma che English? Con All of My Life. All of My Life. All of My Life. Con quanto tre. All of My Life. Va bene, ci ascoltiamo i Foo Fighters. Foo Fighters. Something, something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done. Done, and I'm on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done, I'm done, and I'm on to the next. No, no, non te la posso cantare, non c'ho questa voce per cantare. Vabbè, torniamo in diretta, così il mio regista mi apre i microfoni a scuppoloni, così si vuol dire. Ma siamo in chiusura, quindi ricordiamo, insomma, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo i nostri contatti, facebook.com/londainonda, radiocentrale.it/londainonda, twitter.com/londainonda, la nostra email, indovinate un po', ondainonda@radiocentrale.it /niente. Il nostro numero di telefono è per scriverci in diretta, soprattutto anche nella prossima puntata di Positive Vibration, che è a seguire, 339-8623-955. E appunto, come abbiamo anticipato, Positive Vibration subito dopo di noi con chi c'ha? Claudio quest'oggi se n'è andato, non ce lo potrà dire niente. Lion D ce lo dice qui da dietro la regia. Va bene, allora grazie per essere stati con noi, ci risentiamo mercoledì prossimo. Lo dedichiamo questo pezzo, dai. Sì, questo lo dedichiamo. Anche se la dedica, la richiesta era un'altra, ma non la possiamo fare. Infatti non possiamo farcela, non abbiamo tempo. Ma dedico questa canzone a una mia amica carissima. Vai. Eliana, ti dedico questa canzone che è molto bella. Che Gautier, l'abbiamo sentito l'altra volta, è con Somebody. Aspetta, ve lo sono ascoltato. Attenzione. Somebody that I used to know, esatto. Mi veniva There are you. Vabbè. Somebody that I used to know è un pezzo molto bello di questo cantante con col nome francese. Mm-hmm. Visto che oggi abbiamo preso un nome tedesco, adesso concludiamo con il nome francese. Va bene, quindi grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la settimana prossima, sempre con l'Onda in Onda, perché avremo con noi in intervista in diretta il Teatro degli Orrori. Ma rimanete sempre con noi, non togliete la mano dalla manopola, perché c'è Positive Vibration a seguire. Ma altrimenti prima... siete suffragati. E ci ascoltiamo così, ciao. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Screw.